Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e buon lunedì a tutti, buona giornata di festa a tutti, 8 di dicembre, ma noi siamo qui, Caffè Paglia, un po' come il Popolare Network si sposta di una mezz'oretta, anche il notiziario dei giorni di festa di Popolare Network ha orari diversi, anche noi in questa giornata iniziamo alle 11 e termineremo alle 13. Un saluto a Mingo da questa parte del vetro, oggi ritorno a fare la regia perché il nostro regista sente la partita di domani, sente la partita di domani e quindi non può venire a fare la regia. Dicevo un saluto amico, ma nel salotto buono dello Sport Bolognese vedo due baldi giovani in forma, più o meno in forma. Simone, ciao Simone. Io lo sapevo che mi facevate arrabbiare. L'avevi detto. Saresti arrabbiato col Bologna se non avesse vinto contro la Cremonese. Lo sapevo. E infatti non è arrivata. Grazie per la guffata, caro Simone. dicevamo, lo vedo più pimpante, diciamo così, la stella della nostra trasmissione, il buon Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Abbiamo tanto Bologna. Avete presente quando dicono il calendario adesso impazzisce? Sì. Come la Formula 1 quando dice l'anno prossimo cambia tutto, però questo adesso è arrivato veramente il momento sia in cui cambia tutto in Formula 1 che in cui il calendario del Bologna impazzisce. Certo, non anticipare i temi delle prossime ore, ovviamente chiuderemo la stagione di Formula 1 con il nostro super esperto Andrea Gozza che ci racconterà l'ultimo gran premio di questa stagione e il ritorno alla vittoria di un pilota McLaren, l'ultima volta è stato nel 2008 e guarda un po' chi era quello, ve lo ricordate chi era alla guida di quella McLaren? Era uno bravo comunque. Era uno bravo che quest'anno non ha fatto proprio una grande stagione, ovvero Lewis Hamilton. Vabbè, ne parleremo dopo nella quarta parte della trasmissione, perché appunto abbiamo pensato è festa, vogliamo saltare la trasmissione quando abbiamo tre partite del Bologna da raccontare. Non si può fare, è assolutamente impossibile. Ci incasinavamo per tutto il mese di dicembre dopo, a rincorrere. Ti ricordi quella partita là? Te la ricordi quella? No, dopo. Voi non ci crederete, per noi invece è l'esatto contrario. Cioè, noi a dicembre giochiamo tipo tre partite. Tre partite? Voi sapete. Noi siamo, sì, due o tre partite, non di più. No. Bene, l'esatto contrario. Relax. Tempo per. Ne abbiamo bisogno, poi avete ne parliamo tempo bene. Per chiacchierare, esatto, perché mi sembra che ce ne sia. Poi ne parliamo. Credo che ce ne sia bisogno. Dicevamo appunto. Tre partite del Bologna, si parte da quella un po' disgraziata della Cremonese che era dopo la nostra trasmissione, dopo l'ultima nostra trasmissione, ovvero lunedì sera, ed era quella, diciamo, esame di maturità che ti serviva per poter cullare un sogno ancora più grande di quello che comunque puoi cullare, perché ti avrebbe portato una vittoria a un punto dal primo posto, proprio lì nel pieno della lotta. E invece si inizia e si capisce subito che la giornata non è di quelle positive, con un palo subito. Quel palo lì poteva cambiare la partita? Forse sì, forse no. Orsolini colpisce il palo con un tiro da fuori e da lì ritornano un po' gli spettri di questo recente passato del Bologna, che diciamo sono iniziati probabilmente con Salisburgo sono iniziati, insomma, questo campanello d'allarme, no? Partita vinta bene 4-1, ma con alcune imbucate centrali che diciamo hanno fatto paura o potevano fare, insomma, creare qualche problema in più. Poi si è arrivati alla partita della Cremonese, in cui quelle sensazioni, quelle cose che in realtà il Salisburgo aveva sbagliato, gli attaccanti del Salisburgo avevano sbagliato, in realtà le azioni erano molto simili, sono state portate al gol da uno che segna sempre contro di noi. Clamorosa la statistica di quel ragazzo là, Paiero, ex Udinese, 4 gol in Serie A, 3 gol contro il Bologna. È una roba micidiale, è irreale come statistica. È una statistica che non credo che possa essere ripetuta in nessun altro caso se non nel Bologna. Giocatore buggato, sì. Veramente. Speriamo a gennaio non vada via, perché magari rischiamo di ripetere. Raga, acquistatelo. O lo compriamo noi. Comprare e girare in prestito altrove. In un altro campionato. In un altro campionato, ma lui gioca comunque in un altro campionato. City of Montreal. Esatto, scegliere in modo che poi non lo dobbiate mai incontrare. L'Europa, cose del genere, che sennò bolla sicuro. E poi l'altro di Vardy. Avevamo detto. Vabbè, questo ha sempre saputo segnare. Quando segna Vardy, esatto. Segniamo un po' come se segnassimo tutti noi, ma proprio due col Bologna doveva farli questi qua. Una doppietta non la faceva da 10 anni. No, ti ha preso la lettera, ti ha preso. Cioè, mannaggia. Proprio lì, davanti a me, tra l'altro. Però Vardy, insomma, i gol li ha sempre fatti. La dimostrazione che un giocatore di quella qualità e di quell'età, diciamo così, nel campionato italiano ci sta bene comunque, perché è evidente che stiamo diventando un po' il campionato in cui quelli un po' âgé possono dimostrare ancora qualcosa in più di quello che insomma, rispetto ad altri campionati, lui, Modric e altri, diciamo un esempio che si può fare anche per altri giocatori. Fatto sta che il Bologna prova a rientrare, ma la partita è storta, arriva al 2-1 sul finale del primo tempo, sul rigore. Giusto per riaccendere un po' le speranze di tutti, in realtà non basta, perché la Cremonese continua a giocare in quel modo, salto sistematico del centrocampo, fasce molto intasate. Nicola l'ha studiata molto bene, l'abbiamo sempre detto, è un ottimo allenatore, questo è un grande allenatore, e la Cremonese non è una di quelle squadre che viene con il pullman davanti alla porta, un po' alla Torino di Baroni, ecco, per le ultime partite giocate al Dallara. Ha studiato molto bene la partita precedente, quegli errori, quei problemi che si erano evidenziati con il Salisburgo, ha bloccato molto le fasce, ha riempito le fasce di gente che passava di lì, vai tu, vai a dare fastidio. È Lorenzo Canaglio, ha bloccato le fasce laterali. E cercata questa imbucata centrale che appunto aveva fatto già male, ed è stato così. Tra l'altro finisce 3-1, c'è il giovedì. C'è un'altra partita subito, perché poi il calendario, abbiamo detto, essere molto fitto, c'è la Coppa Italia con il Parma. In tutti i modi in cui poteva iniziare una partita col Parma, dopo che in campionato là hai preso gol al 13° secondo, ecco, sarebbe stato meglio non iniziare prendendo gol dal Parma sì, ancora una volta. Nello stesso modo, tra l'altro, sì. Con due azioni, una non finalizzata, quindi due imbucate centrali, la settimana delle imbucate. C'è un liscio di Ferguson clamoroso, prima del gol del Parma. Sì, e quindi, insomma, tra l'altro senza Casali in campo stavolta, perché in Coppa ci presentiamo noi con la squadra titolare, o quasi, perché insomma è una squadra titolare che ruota, ma insomma con tanti giocatori 8/11 di titolarità, esatto, una cosa che poi il tratto del Bologna di italiano, cioè, le cambiano sempre un bel numero, con Lucumi e Eghem, la coppia centrale titolare, mentre loro, il Parma, erano con le riserve, diciamo così, o comunque con una parte di riserve, quindi avevano dato spazio a chi non l'aveva. Il Parma giocherà oggi contro il Pisa, bellissimo, alle 3, tipo. Partita di grande intensità prodotto da Esportazione. Alle 3 di pomeriggio, di lunedì pomeriggio. Il Parmigiano e la Torre, dai. No. C'è una sfida, dovrebbero storica. Comunque partite importanti, perché sono le due squadre che in questo momento si stanno giocando l'ultimo posto per retrocedere. Ne parleremo, perché anche nella parte bassa qualcos'altro si è mosso. Si inizia appunto, torniamo al giovedì 20° del primo tempo, 25° del primo tempo. Prendiamo gol da Benedicciak, che è uno che non segnava da mai. Sì, un altro che appunto gioca poco, è il cambio di Pellegrino. Se ne ha parlato bene, è arrivato con buone recensioni, diciamo così. Si è visto poco, però insomma, quello lì l'ha fatto, il suo gol l'ha fatto. Il Bologna però lì cambia un po' passo, cambia passo e riesce a recuperare, fare tanti tiri, recuperare anche lo stile gioco del Bologna, quello che avevamo visto poco prima della settimana del buco centrale, diciamo così, questa grande, non so, 10 giorni in cui, tipo il Black Friday. Sì, sì, il blackout difensivo che dura una settimana. Così, e riparte, e con il gol di Castro a un minuto alla fine, un paio di minuti alla fine, insomma proprio nel finale, riesce ad avere la meglio. Gol di Castro affascinante, perché viene su un bellissimo assist di Emil Holm, che è stato il peggiore in campo probabilmente, tra i peggiori in campo. Una delle peggiori prove in maglia rossoblu di Holm, sì, molto, molta confusione, confuso, appannato anche sul primo movimento, sempre un po' in ritardo, davvero. Il momentaneo pareggio lo fa Rowe, che decide che non gli piace fare i gol facili. Quello, il primo, che è, diciamo, il gol più semplice, lo sbaglia prendendo il palo, è vero, un palo molto stretto, quindi quasi, stiamo parlando di centimetri, perché se lo prendi ancora un po' più a sinistra fa palo gol, fa il palo classico gol, palo, certo, gol, che a me è sempre piaciuto tanto. Io vero, sono un vero, appassionato vero, del palo gol. Colpo di biliardo, sì. Vero, sì, bello, se devo bello, scegliere, palo gol. Bel tiro, palo gol. Tranne che sui rigori, sui calci di rigore, no, mi piace. Sì, sulla palla in movimento. Sulla palla in movimento. Calcio in movimento. E invece dopo riesce a recuperare la ribattuta e fare il gol più difficile. Con 8 gradi di luce verso la porta, due difensori e il portiere in area piccola lì riesce. Speriamo possa essere il momento dello sblocco, diciamo così, di questo giocatore, che numeri li ha, si è visto poco, diciamo così, fino adesso, però potrebbe diventare una freccia importante da utilizzare nel turbinio delle fasce del Bologna. Tra i grandi turbini si segnala nella partita col Parma il debutto in una gara ufficiale dopo, in realtà, dopo la prima di campionato in cui si fa male immediata subito, di Ciro Immobile là davanti in una idea di schema a due punte. Che è uno schema, ripeto, già visto per un po' a Roma, secondo me, non letto dai telecronisti, l'ho visto in TV, quindi non posso essere certo, ma mi è sembrato già nei primi 20-25 minuti con la Roma, e riutilizzato un paio di volte durante a partita in corso, quindi comunque è evidente che sia una parte che Italiano sta allenando, cioè una alternativa al gioco classico con il sottopunta, che in particolar modo può essere solo Odgar, il problema è un po' anche quello, no? Cioè, se devi usare quello schema lì, hai bisogno di Odgar. Se Odgar non c'è, non è in forma, crea problemi, ancora non è al 100%, si è visto ieri, sbaglia un gol che poteva cambiare la partita e indirizzarla meglio. Devi segnare dalla, se sei una punta centrale, devi segnare. Però voglio sottolineare un elemento molto molto molto importante. Il Bologna sullo 0-1 per il Parma in Coppa, potevate passare il classico brutto quarto d'ora che vi devastava la stagione, perché rischi di entrare in un turbinio se non riesci a recuperarla. Sai, due sconfitte consecutive in casa contro Cremonese e Parma, massimo rispetto, ma tu in questo momento sei superiore come squadra, poteva, no, Fio, innescare un mini processo di una mini crisi, insomma, capito? L'apertura di una mini crisi, cominci a credere meno in quello che magari fai, capito, queste piccole stronzate che però alla fine ti svoltano la stagione o in positivo o in negativo. E invece qui voi molto bravi, molto molto bravi, la reazione, un bel esame che avete superato, ecco, la reazione al gol del Parma, diciamo così, è quella che a noi tifosi, diciamo così, sì, presenti allo stadio, ti fa dire no, non è una crisi strutturale, diciamo. Esatto. C'è stato il Black Friday e la reazione al gol, subito anche una chiave di lettura della partita di ieri all'Olimpico contro la Lazio. Intanto grandi emozioni nel ricordo di figure che uniscono le due tifoserie, parliamo chiaramente di Nicolò Casale. Non ho visto striscioni per... strano, vero? Strano, non ci fossero striscioni per Nicolò Casale, che comunque ha giocato in entrambe le squadre. Oh, me lo aspettavo, quello avrebbe detto, e mi fa ridere lo stesso. Ovviamente parliamo di Mihajlovic e di Immobile, che torna nella curva, dove, insomma, davanti alla curva. Tra l'altro, secondo me, io ho sentito l'intervista prima della partita di Italiano, che ovviamente i giornalisti Sky in particolar modo volevano, allora Italiano Immobile pronto, può giocare 20 minuti, 30 minuti, insomma lui, e intanto scorrevano le immagini di Immobile sotto la curva della... lui guardava e diceva, secondo me non è proprio pronto, forse no. Meglio di no. Poi è ovvio che l'infortunio in corso, i cambi cambiano nel corso della partita, causa infortuni, e quindi non c'è più quella possibilità di vederlo. Sceglie Dallinga nel finale, sceglie Dallinga quando loro erano in 10, ecco, quello è il rammarico forse della partita. È ovvio che, come dicevamo prima fuori dalla diretta, un punto contro la Lazio all'Olimpico è sempre un buon risultato. Un punto all'Olimpico in qualsiasi campionato, in qualsiasi stagione, è contro qualunque delle due avversarie, ma è sempre un buon punto. Anche perché il primo tempo ci presenta una Lazio vispa, il Black Friday che lascia ancora qualche segno sulla costruzione dal basso, sulla manovra difensiva dei Casale rossi-blu. Subito si presenta appunto emozionato per la festa che ha ricevuto. infatti dice, oh, se Casale è così emozionato, figurati Immobile. Cioè, non lo faccio giocare, questo fa autogol, perché si presenta subito così, giusto per... Ma è un giocatore che avrebbe bisogno di un po' di sicurezza, di qualche cosa, no, qualche cosa positiva. Allora, infatti lui cerca di dare il suo contributo alla gara facendosi male da solo, mentre è fuori dal campo, esatto, appoggiato per terra, cattivi. Siamo in 10, prendiamo gol, esatto, giustamente così. E quella è appunto un... E comunque non voglio dire, è un gol in cui si vede tutta l'assenza dell'uomo che ci doveva essere. Che doveva essere uno lì, sì, sì. Esattamente. Perché Ravaglia poi si sta in cassa tra... per quello secondo me. Sì, dov'è quell'altro? Era fuori dal campo a rotolare. Esatto. E quindi, se non altro, lato positivo, sapete io sono l'ottimista della trasmissione, non abbiamo preso gol allo stesso modo, ecco. Cioè, se sì, c'è diverso, è un gol diverso almeno. Cioè, nell'azione che porta il gol della Lazio si vede già comunque che Ravaglia è in forma. Sì, sì. Ravaglia parte subito. Partitone. Subito bene su Isaksen, credo, il primo. Prima del gol. Sì. Fa subito una bella parata prima. Evidentemente si vede reattivo e presente già dall'inizio. Nel secondo tempo diventerà protagonista. Anche per questo uno dice è un buon punto, nel senso, vai a vedere, probabilmente il miglior giocatore del Bologna è stato Ravaglia. Sì. L'abbiamo detto per altre squadre, no? Che vincevano col portiere migliore in campo, insomma, lo dobbiamo dire anche del Bologna. E anche nella Lazio Provedel fa una buonissima partita. In realtà, dopo il gol subito, segniamo subito una azione ben disegnata, ben congegnata, in cui Zortea si prende di coraggio e va via a Nuno Tavares con una facilità che quasi impressiona. Sulla tapin sotto porta è pronto Jens Odgaard. Lì è lesto da attaccante, diciamo così. Se sbaglia il gol, che in realtà doveva essere, beh, ricordiamo, Odgaard arriva a Bologna che è un attaccante, questo tra l'altro si presenta subito bene perché fa gol in 5 minuti, fa due gol per in 5 minuti giocati. 5 più 5 gol. Sì. Quindi si presenta da attaccante. Poi abbiamo raccontato che vive lui il problema della fascia. Lui ha il problema della fascia, l'abbiamo visto anche col Parma, un po' ha giocato in fascia e si vede che c'ha una faccia diversa. Gli mancano dei riferimenti, gli mancano delle cose. Gli manca lo spazio per ballare come sa ballare lui e avere l'opzione di andare, vado a destra o vado a sinistra, perché lui comunque è ambidestro e può giocare ambidestro. Se sei in fascia, una delle due finisce il campo. Non c'è il campo. E quindi è evidente che sia quello. E, Zortea, secondo me, è quella cosa che serviva a Casale, serviva anche a Zortea. Ed è servita a Zortea per sbloccarsi un po', perché era uno di quelli un po' sotto media rispetto, insomma, anche alla buona stagione che aveva fatto l'anno scorso a Cagliari. E all'inizio della partita sbaglia due o tre cose, si prende delle cazziate da italiani, addirittura che si sentono da Sky. Da quel lato c'è tanto casino all'inizio del primo tempo. C'è un Nadir urlato da italiano ed è inquadrato lì che sta andando verso di lui, quindi capisci che è proprio lui. E grida un Nadir incredibile su un errore difensivo in questo frangente, sull'errore difensivo. Invece, appunto, nel gol è vero che, diciamo, una buona parte ce la mette Tavares, che dal punto di vista difensivo è veramente scarso. Lui, giocatore che arriva in Serie A e la spacca, perché diventa una freccia, un uomo è assist, grosso, è potente, ha quel dinamismo là, dinamismo. Viene letto, viene compreso dagli avversari e il suo punto forte non è più così forte, i suoi punti deboli rimangono. Soprattutto perché lo attacchi a quel punto, no, sai, vengono che... accentuati, non è che oltre a rimanere. Quando ti conoscono, lo sanno che tu sei molto bravo nella fase offensiva, ma sei meno bravo nella fase difensiva e quindi ti puntano, ti cercano di creare il gioco in quella zona lì, no? È vero che in questo caso Boyle lo fa sulle fasce, lo fa sempre di qua e di là, però soprattutto nella prima parte si è giocato molto più a destra, nella fascia destra dove si trovava Casale e si trovava Tavares. Mingo mi ha appena dato uno spunto molto interessante su collegandolo ad un tweet che ho letto del mio amico Claudio, appunto su X, su Twitter, chiamatelo come volete. Se parlavamo di Bartesaghi, bene, il ragazzo del Milan, e Claudio, il mio amico enormemente calcistico, appunto si chiedeva, sì, ok, bel giocatore, prospettivo, ok, però vediamo noi di non farlo diventare l'ennesimo esterno di un centrocampo a 5. Che fa... Sì, beh, no, poneva un quesito fio tecnico-tattico davvero molto molto molto interessante. Mi spiego, se no tu non riesci più a trovare un terzino in una 4, capito, che sappia fare bene quel tipo di lavoro lì. E di una Tavares è quel tipo di giocatore, è potentissimo, velocissimo, però una volta che l'hai letto, cioè, che cosa abbiamo sempre detto noi dei difensori? Se se ne parla troppo della fase offensiva e mai di quella difensiva... Sì, non sono difensore. È come per la punta che fa un grande lavoro di rifinitura, fa sponda, però dopo poi non segna. Siamo sempre lì. Allora, su difensori di cui abbiamo parlato volentieri, uno dei protagonisti del match, non il game changer, perché abbiamo parlato di un 1-1 momentaneo che poi sarà, no spoiler, sì spoiler, il risultato finale della partita, è Mario Ghila. Un pupillo di questa redazione. Non ci posso credere. Che diventa protagonista in negativo in pochi secondi facendo una cosa surreale. Lui fa un fallo da cartellino rosso diretto. Era già diretto. In un momento di garantismo, Fabbri gli caccia il giallo. Lui impazzisce e gli dice due volte: sei scarso, sei scarso. A che dice, allora io quasi quasi ti do il rosso. Cioè, io immagino la testa di Fabbri, no? Che vede, sai, l'arbitro deve decidere con tutta la buona volontà, deve, capito? Decidere in una frazione di secondo, e quindi quando decide se dare giallo o rosso, no? È una roba che devi fare, è il fallo, vai, certo. Vai nella tasca, mano in tasca, e decidi cosa prendere, perché stiamo parlando di centesimi di secondo, decimi di secondo, e quindi io me lo immagino, dici do il rosso, do il giallo, dai, gli do il giallo per non creare problemi, e tira fuori il giallo. Una volta tirato fuori il giallo, questo gli urla contro, ma allora vedi che era rosso, allora c'era la vocina, no, sai, le vocine, il santo, il diavolo che il vengono fuori, il rasoio di Occam, la soluzione più semplice è sempre quella giusta, sempre. E cazzo, gli devo dare il rosso, adesso il labiale ci ricasco sempre il rosso. Glielo devo dare subito. Ma così no, però è un mio pupillo enorme sto ragazzo. Aveva giocato qua, bene. Fino a quel momento lì era stato uno dei migliori. Non si fa così. Della difesa della Lazio, anche con proposta offensiva, ha fatto anche un bel tiro, si erano spostati in avanti, cioè, insomma, era, no, ma è un grande giocatore. Era un grande giocatore. Molto operativo, lascia la Lazio a quel punto in 10 per ben 15-20 minuti, insomma, gli ultimi. È il 79esimo, sì. Sì, più un recupero, quindi sono una ventina di minuti, no, un quindicina di minuti, però il Bologna non riesce pure facendo i cambi a essere veramente pericoloso. La pressione c'è, però non arriva l'occasione che ti fa dire mannaggia, quella la potevamo mettere. È anche vero che, appunto, dicevamo, il pareggio contro la Lazio a Roma è un buon risultato. Prestazioni positive di tutti, direi. Un richiamo, un ritorno positivo di tutti, e con la necessità, appunto, di essere già pronti per giovedì, perché giovedì Vigo sarà uno slodo importante. Attenzione, quelli hanno fatto un partitone. Hanno battuto Real Madrid, non so 2-0, se così. Non so se per prepararci alla nostra partita si sono. Ci sarai presente. Hanno fatto giusto una vittoretta, proprio così, una cosuccia. Da prepararsi, giusto un po'. Vabbè, questo è quanto. Andiamo in pausa pubblicitaria, prima con una canzone. E poi una grande top 5. Una super top 5. Prontissimi a rientrare e a buttarci dentro alla top 5 di quest'oggi. Cose interessanti, anche se non ci sono tantissime partite, perché tre giocheranno in questa giornata. Oggi si esporta forte. Si esporta di brutto, alle 15, alle 18, alle 20, 45 se non vado errato. Quindi insomma partite un po' meno, ma abbiamo visto cose interessanti questo fine settimana sportivo. Cose interessanti. Iniziamo da quella che è stata una cifra stilistica di un allenatore che comunque le sue cosine le ha vinte, poi è andato via in modalità strana. Ma vi ricordate quando a un certo punto Simone Inzaghi era un allenatore da quinto per quinto, cioè quei gol in cui un esterno di centrocampo faceva segnare l'esterno opposto? Ve lo ricordate quella cifra stilistica là? A un certo punto era diventato un tratto distintivo di quell'Inter là, Inter che si trova di sabato alle 18 a Milano a giocare contro il Como, che è la nuova bambolina del mainstream sportivo italiano. Ovviamente meritato, 12 partite consecutive. Ovviamente il fatto che il Como sia sponsorizzato da Uber non cambia nulla nella percezione di Fio. Questo, sentito nelle parole che comunque ha speso per la squadra lariana in questi mesi, cioè assolutamente casuale che ci sia quello sponsor lì. È una di quelle cose che mi fanno stare bene, ma bene che muori, tipo nel finale di American Beauty. Cioè, come, perché ogni cosa è al suo posto, come quando ho scoperto che Masini era fascista, io stavo bene. Beh, era una bella idea. Bella allora non ero è giusto, io, è proprio giusto, è giusto che sia così. Certo. E sta bene quella scritta su quella maglia di quella società che, ricordiamo, se non fa 200 milioni di mercato in uscita non può partecipare a nessuna competizione europea. Comunque, parla il campo, l'Inter fa una grande partita contro il Como. Il Como gioca a pallone, sono molto contento, al di là delle gag, che il Bologna abbia già affrontato il Como e abbia già vinto, pur di misura, quella gara lì. Il Como va a giocarsela con i suoi strumenti, trova di fronte a sé un Inter molto più aggressiva di quello che abbiamo visto nelle ultime di campionato. E Lautaro era in forma, lo sapevamo già. E quello che ci fa piacere e abbiamo messo in top 5, partendo dalla suggestione del quinto per quinto, sì, quello viene fuori dal gol che chiude la partita, il gol del 4-0 lo fa Carlos Augusto, ma dalla prestazione di un oggetto misterioso della campagna acquisti dell'Inter di quest'anno, criticato molto dagli interisti, perché non pronto, chi è questo, da dove viene, perché, Luis Enrique. Eh sì, proprio lui finisce nella top 5, fa un'ottima partita, aveva bisogno di un po' di fiducia il ragazzo, però insomma, è segnalato con un'ottima partita. Più attaccante che centrocampista, come molti quinti di quei centrocampi là sono stati più centrocampisti che difensori, a seconda di come la vuoi leggere. Però giocatore che a Marsiglia era uno di prospettiva doppia. La gamba ce l'ha, la gamba ce l'ha, come affonda. È molto interessante, leggevo ultimamente la statistica che riportava come il Como fosse la migliore squadra nel pressing offensivo del campionato italiano. E però l'Inter, di nuovo, quando c'ha a che fare con una squadra molto forte nel pressing avanzato, nel terzo o quarto di campo, quindi davanti a loro, quindi davanti alla linea difensiva, l'Inter di nuovo dimostra di essere la squadra con la costruzione bassa, diciamo, più oliata nei meccanismi, più rodata. La vedete come escono sempre bene? Ogni tanto tu ti distrai un attimo e vedi Di Marco che più si invola. Ieri poi Luis Enrique prende e si invola. Riescono sempre a crearsi quei 20 metri, 15 metri di sprint iniziale con cui poi guadagnano sempre uno, anche due tempi di gioco. L'avevamo già accennato due o tre puntate fa. L'Inter tra le concorrenti dello scudetto è quella ancora con il motore migliore, sì, diciamo così. Probabilmente sì, probabilmente ha gli apici migliori, sì. Cioè quando l'Inter è in forma, diciamo così, è la più forte del campionato. C'ha degli automatismi che si vedono proprio, è una macchina che va da sola, capito? Ci ripetiamo sull'Inter, ma è un buon messaggio questo. Se fosse un interista sarei contento di sentirlo ogni lunedì, perché l'Inter effettivamente, se la buttiamo sul solo gioco, sul solo impianto di gioco, il Bologna è quello più magari più moderno, interpreta le nuove dinamiche del calcio, però l'Inter è quella più preparata, diciamo. 4-0 il risultato finale, tondo. Apre le marcature Lautaro su assist di Luis Enrique e raddoppia in una fase in cui il Como si inizia, sì, a far vedere, esatto, al ritorno, esatto, dall'intervallo. però il 2-0 temporaneo lo fa Marcos Thuram, che segna senza segnare, lo aveva già fatto altre volte, segna senza volerlo, sì sì, quelle cose, gol quasi non voluto, ricordiamo una faccia perplessa di Thuram padre a Parma in occasione di un gol simile a quello che fa sabato. E bello il terzo gol di Çalhanoğlu, frutto di una riaggressione furibonda sulla tre quarti con Barella che smazza, e poi la chiude con il quinto per quinto Carlos Augusto, un altro potenziale quinto che condivide il posto con Luis Enrique in top 5, c'era già stato ma noi ce lo rimettiamo, a Palestra, che si mette in luce in uno dei match più belli della giornata, anche se il risultato è di solo 1-0 per il Cagliari in casa, torna la vittoria contro la Roma. Di Gasperini, dei miracoli, esatto. La Roma che è ancora lì, Roma con Sviler ancora migliore in campo per i suoi. Però stavolta non serve perché perdono 1-0 lo stesso, e però, quindi non è in quel caso lì, non sono punti guadagnati, però rimane il fatto che la Roma credo in due partite ha fatto due tiri, la Roma di Gasperini che era noto, diciamo così, soprattutto per fare tanta quantità offensiva, no? Sì. È evidente che uno, il fatto che giochino sempre gli stessi e hanno due impegni, c'hanno la Coppa, c'hanno l'Europa League e tutto, in un sistema dispendioso come quello di Gasperini, alla fine creasse qualche problema. In effetti sembra un po' indirizzato, è un po' come dicevamo del Bologna, dopo la Cremonese giochi col Parma, loro ne hanno perse due in fila, già iniziano a infilarne due in fila e avranno la Coppa giovedì, quindi per la Roma si iniziano a vedere qualche limite, diciamo così, proprio nella produzione offensiva, che è appunto casuale, cioè nel senso fa ridere pensare di una squadra di Gasperini, però è così. Ieri comunque messi sotto in tutti i reparti dal Cagliari, che la chiude con Gaetano, ma grandissima prestazione ancora una volta, grandissima di Palestra, che non fa né gol né assist, ma è l'uomo in più. E quando attenzione, non fa assist, non risulta fra gli assist perché i compagni sminchiano, sì, sì. Se no lui le mette due tre palle, niente male, manda in porta i compagni molto bene. E quando è così propositivo e quella corsia è così prepotente, gioca bene Folaruncio, gioca bene Obert, cioè dei giocatori normaloni entrano in stato di grazia. Spieghiamo, perché sennò sembra sempre che non ci siamo su, è la terza o quarta volta che parliamo di Palestra. Non è tanto il Palestra in sé, è il discorso va allargato alla nazionale, perché io ve lo dico mo, se salto un altro mondiale io mi sento male. Ok? E sono disposto a pagare il prezzo di un'altra eliminazione solo e soltanto se facciamo un discorso di prospettiva. Dice ok, tu stai cominciando a gettare le basi per 2030, allora ci sto, se no io mi sento male. Se la dobbiamo perdere così. Bravo amico. Allora, almeno proviamoci con i Palestra di turno e non con Di Lorenzo al testo. Prospettiva, abbiamo detto prospettiva, la prospettiva per cui quest'estate l'Atalanta di tutte le cose che poteva fare prende Juric è una prospettiva che ci è sfuggita. È arrivato Palladino, ha fatto vedere che delle cose di calcio lui comunque le capiva, però arrivano delle partite tipo che vai al Bentegodi e c'è nebbia e ti prendono a pallate. Potremmo sì, una squadra che non aveva ancora vinto insieme alla Fiorentina, non aveva ancora vinto e sfoga sull'Atalanta. L'ho vista, sai? È l'unica partita che sono riuscito. Sei riuscito a vedere con la nebbia? Quasi tutta, quasi tutta. Un bel Verona, ha giocato molto bene, devo dire che l'Atalanta è stata sorpresa, forse un po' molle, ha iniziato non con quella grinta giusta l'Atalanta, forse questa cosa ha dato quella forza al Verona di potersela giocare, e il Verona ha giocato una gran partita. Allora, prego. No, gioca una gran partita, potremmo mettere, eravamo in dubbio su chi mettere in top 5, siccome Giovane c'era già stato, abbiamo scelto Bernede. Partitone. Tu l'hai seguito? Allora, l'ho seguito, volevo dire che c'è stato una specie di contrappasso tattico molto molto molto interessante, perché a un certo punto l'Atalanta si stava allargando su un 3-4-3 molto elegante, molto ricercato nel palleggio per giocare sugli esterni. Ero lì che lo notavo, non faccio in tempo a notarlo che gli altri timbrano. E dov'è il contrappasso? Che il Verona ha dominato nei duelli, era uomo a uomo, esattamente come faceva l'ultima Atalanta di Gasperini, no? Che metteva uomo, ma già tipo nel reparto avanzato, già nel pressing offensivo per recuperare, uomo anche su falli laterali, andavano uomo su uomo, traiettoria su traiettoria fissi. Ed è esattamente quello che faceva l'Atalanta fino all'anno scorso, fino a un paio di anni fa, diciamo il culmine massimo di questa metodologia di gioco. Il Verona ha battuto l'Atalanta con i mezzi con cui l'Atalanta si è fatto il suo nome, ok? Ho cercato di farla più chiara possibile, e ha tenuto un'intensità atletica densissima per tutta la partita. E Bernet, appunto, raga, non gli ho visto sbagliare un tocco, un tempo di gioco, uno spazio di gioco. È vero, Bengaglia e Giovanni hanno dato spettacolo, soprattutto il primo gran gol, soprattutto bello, molto bello, però questo qua a livello di tempi di gioco fantastico. E quando parli del Verona non puoi citare la mano ferma nella gestione del gruppo di Zanetti, che non è uno che è ricordato mai per il gioco spettacolare, non lo è mai stato, ma il grande lavoro anche di Sean Sogliano nell'andare a pescare giocatori esotici, definiamoli così, esotici. Sì, con un budget molto molto molto molto basso, insomma, va a prendere giocatori a poco che sanno giocare a calcio. E c'hanno Cissé a Catanzaro che cresce su, E c'è anche sì, questo prestito a Catanzaro. Il Verona riesce a vincere la sua prima partita, ma rimane penultimo. Rimane penultimo perché dietro c'è chi rimane ultimo. Non siamo contenti, molto contenti di trasmettere dalla nostra città e non da altre città, perché se trasmettessimo da altre dall'altra città parte degli Appennini dovremmo parlare molto di cose che col calcio giocato fai veramente fatica a saltarci fuori. Se usi gli strumenti del gioco del pallone, come fai a commentare una gara come quella della Fiorentina contro il Sassuolo? Veramente, cioè, una stagione che si sta tingendo veramente i colori nefasti. Ne succedono un po' di tutto, cioè li stanno unendo una serie. La partenza è tutta Pioli con il famoso foglietto attaccato nello spogliatoio della Champions, non ci mettono della Champions, parti da lì e finisci che sono 14 partite che non vinci, cosa che non ha mai fatto nessuno che si è salvato, quindi sei ancora lì a giocartela con la storia. E in anelli una serie di figuracce e di situazioni, dal Dzeko che ti racconta di sì, facciamo cagare ragazzi, non ho mai sentito un giocatore dire una roba così, tutto quello che è Sassuolo che comunque sta facendo un'ottima stagione. Campionato, Fabio Grosso comincia. Sta facendo un'ottima stagione a 20 punti, come la Cremonese, per dire. Esatto. Davanti alla Lazio, per dire, in questo momento, nella classifica. Quindi ottava, nona, possono anche ambire a posizioni europee. Ecco, non sono lontane. Sassuolo fa un'ottima partita, però la Fiorentina è in questo momento veramente allo sbando. Vanoli mi sembra che non abbia. Di solito no, arriva il nuovo allenatore, una spinta, un qualcosa, una situazione anche di fortuna, niente proprio, rimane piatta. Spogliatoio guasto, io avevo buttato lì che il fatto che non parlasse col megafono in mano ai tifosi sotto la curva Ranieri, ma Dzeko, fosse un segno di normalizzazione dei rapporti di forza del gruppo. Non è successa questa cosa, Dzeko non ha giocato. La partita sembra girare bene per la Viola, che ha anche quasi 5.000 tifosi a Sassuolo, sembra che giochi in casa lei. Il portiere, buon portiere del Sassuolo, Muric, fa un'uscita grezzissima e causa un calcio di rigore. Tra l'altro Parisi sta ancora rotolando in preda agli spasmi dal settimo minuto di quella partita, sta tuttora rotolando sul divano di casa adesso. Siparietto per chi batte il rigore, perché non si sa in allenamento se c'è un per aggiungere, visto che già avevamo fatto, aggiungiamoci, ma cosa manca questa stagione? Ah, due che litigano per il rigore, bene, facciamolo, cioè li sta veramente facendo tutte. Lo tira Mandragora, lo realizza, da quel momento gioca solo il Sassuolo, che se li mette sotto e se li rulla. Inventa un bel gol volpato su assistenza di Muaremovic. Quello era il giovedì della Roma, me lo ricordo bene, grave, sono contento. Raddoppia ancora Muaremovic, la chiude dopo un gol annullato per fallo in attacco in partenza dell'azione, che causa la fiammata di Grosso, che abbiamo conosciuto come uomo mansueto, ma impazzisce. Impazzisce totale, e poi la chiude con E su assist ancora di Volpato, e sono qui due, Volpato e Muaremovic. Noi abbiamo messo Muaremovic, giocatore che servirebbe a tante squadre. Mi sembra giovanile Juventus lui. Può essere, se non mi sbaglio, me lo ricordo in maglia bianconera. E poi dei 6 punti, dei 3 gialli presi nei minuti di recupero dei giocatori della Viola, dello psicodramma collettivo, dei comunicati in cui si invita i giocatori a tirare fuori l'uomo che c'è dentro di loro, beh, non parliamo perché fortunatamente non trasmettiamo da quella città, ma trasmettiamo da questa città. Cioè, immagino che le radio locali, fiorentine, sportive abbiano punti un po' diversi e ne discutano in questo momento in maniera diversa, come possiamo fare noi che vediamo questa cosa. Appunto, la Fiorentina è in corsa per scrivere la storia. Sì, sì, la storia, cioè, decisamente. Se vogliamo guardarla da un punto di vista positivo, comunque, per loro, devi fare la storia. Se si salvano, devi fare la storia. È vero che probabilmente la quota salvezza sarà un po' più bassa. Dei 40 punti, secondo me non ci sono 37, forse sai che meno. Sei almeno a meno 30. Ecco, da 36 potrebbe essere. Vuol dire che devi vincere sicuro minimo per poter sperare di salvarti da qua alla fine. 10 partite. Dopo che in 14 non l'hai mai, capisci, non l'hai mai che fatto. Già la matematica ti comincia a rimanere contro. Sì, ecco, diciamo, sei contro la storia, cerca di non arrivare contro la matematica, perché quella la storia la vuoi ancora battere, ma la matematica, è assolutamente così liscia, così. Probabilmente dall'altra parte degli Appennini stanno commentando in maniera diversa. probabilmente sì, segnalo. Ma aspetta. Noi comunque siamo qua, non siamo là. Quindi, ricordiamo che noi trasmettiamo da qua e non da là. Segnalo comunque dal locale al globale che nel mio feed di YouTube, nelle ultime 48 ore, io non l'ho ancora aperto perché sono un ragazzo razionale, ma continua a uscirmi un Generazione Z con poltrona da gamer con un video di 27 minuti che dice cosa succederebbe se la Fiorentina andasse in Serie B. Tipo se un asteroide colpisse la Terra. Non lo so. Non aprirlo per sicurezza, almeno per un non po'. Non lo so, non ha questi problemi un allenatore che qua intorno abbiamo visto mentre io e il buon Simo eravamo a vedere Marrakesh. Bella Marra, lo posso dire, gran serata. Grande show. Bella, non lo puoi dire. Complimenti anche alla polizia municipale di Casalecchio che rende un incubo logistico qualsiasi cosa, ma vabbè, va bene. No, parliamo un secondo solo. Mingo, c'era il traffico disastroso, 40 minuti per uscire dal parcheggio. 40 minuti ci abbiamo messo ed era solo lì, perché poi una volta scavallato, diciamo, la rotta attuale che si era creata da sola, completamente vuoto, tutto libero. Bravi. Un lunedì sera qualunque nell'Interland bolognese. Contemporaneamente i ragazzi di Davide Nicola stavano festeggiando la vittoria ottenuta al Dall'Ara e ieri i ragazzi di Davide Nicola hanno festeggiato un'altra vittoria in quello che all'inizio del campionato sarebbe sembrato uno scontro diretto, salvezza, ma la classifica racconta che in questo momento la Cremonese è tranquilla. È quanto a 20 ci punti, fa piacere sta cosa. 20 punti dopo 14 partite, se la quota è 36, diciamo si è avvicinata ben più della metà e quindi sta facendo un'ottima stagione. Sono molto contento. Nicola riesce a insomma col suo lavoro a non dover soffrire fino all'ultimo giorno, perché questo poi vince, però ha sempre sofferto fino alla fine. Adesso se la può giocare in maniera più interessante. Contro il Lecce la sfida si decide nel secondo tempo, dal dischetto Bonazzoli e poi raddoppia Tony Sanabria al suo primo gol allo Zini. Giocatore, lui, seconda linea ormai storicizzata della provincia del calcio italiano. Eh sì, quindi questa è la situazione. Anche Di Francesco dice ottima, cioè, sappiamo Di Francesco è una bella persona e quando deve dire le cose tendenzialmente le dice chiaro. Quando è uscito ha detto ha giocato meglio loro. Abbiamo perso perché ha giocato meglio loro. Non c'è un motivo, sono più bravi gli altri. E tra l'altro Vardi si è proprio riposato, probabilmente sì, l'unico a non brillare in campo tra i grigio-rossi. Bravo Nicola, brava la Cremonese che appunto si trova in questo momento all'ottavo posto insieme a Sassuolo, ne abbiamo parlato proprio di tutte e due. Cremonese ottava. Sensation. Andiamo in vetta perché c'era un big match di quelli. È incredibile che questi, che tutta la vita che fanno quel lavoro, non si fossero mai incontrati. E parlo dei due allenatori delle due big che si sono affrontate. La prima volta che giocano contro Spalletti e Conte? Perché sono stati via, uno andava via, poi l'altro staccava, tornava quell'altro. Tra l'altro, appunto, è incredibile che giochino della partita in cui si incrociano le magliette, esatto. Cioè, esatto. Ma tatuaggi invertiti, esatto, tatuaggi invertiti. Sia la prima sfida tra Spalletti e Conte. Il Napoli, Napoli mi sembra quella settimana lì gli è servita. Sì, sì, è evidente, sì, che quella settimana lì, quella scossone, quella il congedo roba, parentale di Conte, esatto, cosa. Chi l'ha chiamato la settimana bianca, che è andato a fare la settimana bianca, è servito, perché la squadra ha ripreso a muoversi, anzi sembra più concentrata di prima, anche un po' più cattiva di prima, esatto, esatto, di prima. Si trova adesso al primo posto, batte la Juve 2-1, ritrova anche il gol di Højlund, che era un po' che non segnava, protagonista della gara insieme a un'altra gigante prestazione di Neres, è l'altro nome che continua a crescere, che gli, insomma, è arrivato all'esterno. Anche Lang sta iniziando a trovare spazio, quindi insomma quel mercato di cui Conte si era lamentato, sembrava non fidarsi, esatto, dopo è stato tutto il passaggio. Attenzione, perché il Napoli appunto è quella squadra con Conte che insomma quando sente il sangue del primo posto e lì parte, attacca, aggredisce. Posso di i gol, il primo gol che segna ieri Holland, sono di quei gol che mi fanno ammattire, perché sono uno di quelle skills che una punta deve avere se vuole andare in giro a raccontare che fa la punta come mestiere. Guarda che rima che ti ho fatto, perfetto, sei grande, stato marra, impeccabile, è marra. Comunque sono proprio quei gol arrapanti da vedere, l'attacco con 3 secondi in anticipo nella sua testa sul primo palo, che ci arrivi di mezza punticchia proprio con la puntina della scarpa, sono proprio belli, l'anticipo secco sul difensore, gli sfili da dietro, o da, in questo caso lui addirittura gli sfila davanti, sì sì sì davanti, che senza, è peggio ancora, è proprio ancora peggio, e al portiere senza appello. Un attaccante deve saper fare quello, se no non è un attaccante. In una buona giornata di David Neres, che a momenti con una dinamica simile fa segnare persino di Lorenzo, sarebbe un po' troppo sinceramente. Beh, Vergara è riuscito a far segnare Luca, incredibile, è vero, avete vero. Visto Coppa Italia, sì, sì. Coppa Italia l'abbiamo visto, avete eh? Visto ragazzi? Io per lui ho mandato almeno 3 mail al Bologna Calcio nel corso degli ultimi 4 anni, ve lo giuro. Ve lo giuro, vedrà che viene fuori, vedrà che viene fuori. Nel secondo tempo la riprende momentaneamente la Juve col solito Kenan Yıldız. Bella azione però, posso dire? Bella molto azione, bella, un bel bella. McKennie. Molto bella. E poi a un certo punto succede qualcosa per cui Spalletti cambia il piano gara e decide che le squadre si allungheranno e decide che è tempo per Miretti. Okay. Di fatto al posto di Yıldız. È lì l'errore, Miretti lo capisco ma non al posto... Sì, e si fa un po' di casino con i cambi. Comunque McKennie, che l'ha fatto l'assist per Yıldız, fa l'assist per il raddoppio di Højlund. Eh sì, in un certo senso sì. In realtà io credo che la Juve ancora, Spalletti non abbia ancora capito bene come gestirsela, adesso devo dire questo. Spero che continui a fare così, visto che è la prossima avversaria del Bologna. Cioè, spero tra che una cosa e l'altra, sì, a non capirle. In mezzo c'è la Champions, ecco, se deve vincere una partita che vinca in Champions, perché insomma è con ovvio con chi se la batte in Champions, adesso questo mi chiedi troppo, okay, tanto dopo ci andiamo. Comunque so che dopo gioca contro il Bologna, quindi come quella pensa? Partita ci tengo particolarmente. Gioca in casa contro il Paphos, direi, se posso permettermi, direi che la vincerà, no, io fossi, la vincerà. Fossi, allora il secondo gol di Højlund di ieri è una cosa che ti manda in bestia, perché non è possibile che ci sono due giocatori del Napoli completamente soli a 40 centimetri da Di Gregorio, nel pieno del cuore dell'area tra il portiere e il dischetto, oltre a Højlund c'è uno accanto libero e i due più vicini sono a mezzo metro uno dall'altro, non esiste, fan del casino, non fan esiste, del casino, non esiste. E i problemi sono sia dietro che davanti, perché dietro abbiamo visto poi infortuni continuano, si è rotto anche Gatti, tornerà Bremer, il Napoli era senza mezza squadra, il Napoli era senza mezza squadra. Le caratteristiche dei giocatori offensivi della Juve, con Seisao che è fortissimo ma tende a isolarsi, Openda e David che non trovano il loro posto nel mondo, Vlahovic si è rotto anche lui. Senza Yıldız c'è veramente poca Juventus, e anche con Yıldız non basta per portare a casa la sfida al vertice, e quindi il Napoli è capolista e questa top 5 finisce così. Buttiamo dentro a che questa pezzo è, ma che un pezzone, il mio amico fa così, ragazzi. solo musica dal 2015, 10 anni fa. Che oggi. Pezzone che ha tirato su. Arcade Fire, per la precisione. È un consiglio di ascolto per chi in podcast si fa la sua playlist. Esatto, se la fa. Quindi faccia venire la voglia a quelli che non sentono nel podcast la musica. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo. Ah, ma bravo tu. A questo punto andiamo dentro l'ultima parte oggi, un po' così a caso diventa la parte internazionale. Ci sono state cose interessanti. Abbiamo già detto del Celta di Vigo che batte il Real Madrid, forse una delle sorprese, diciamo, di questa. Al Bernabeu. Esatto, non solo. Al Bernabeu, che è il Celta di Vigo, quello che giocherà col Bologna giovedì. Bene, siamo contenti. Che ha fatto questo grande numero, quello che gioca col Bologna giovedì. Speriamo siano, diciamo, appagati dal risultato. Fanno un grande lavoro per il Barcellona, di fatto. Sì, perché comunque la sconfitta del Real 2-0 contro il Celta, grande prestazione di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ionut Radu in porta. Proprio lui. Radu. I tifosi dell'Inter sono. Anche noi, ricordiamo. E la doppietta di Svedberg, è un ragazzino che conosciamo da tanto, sono molto contento, peserà anche lui 50 kg. È bello vedere questa gente molto poco atletica, sembra uno di noi, ok, non so se l'avete visto mai, ragazzo molto longilineo, molto sembra, fa due gol di gran classe, posso dire, di grande classe, il primo soprattutto un tacco esterno a chiudere una bella azione di aggressione, niente male, bravi loro. Ed è quello il gol che fa impazzire il Real, che inizia a sfiammare, rimane in 10, becca un rosso alla panchina, nel recupero becca un altro rosso in campo che le dà in 9 per il definitivo 2-0 ancora di Svenberg, doppietta per lui. Meno 4 i punti dei Blancos dalla vetta che è del Barcellona, che vince 5-3 sul campo del Betis a Siviglia. E quindi la solita partita del Barcellona, ultimamente del Barcellona, in cui spazio per i gol, ecco, diciamo così. Sì, vanno subito sotto, poi ne fanno 4. Anthony che porta in vantaggio il Betis, dopodiché Ferran Torres decide di ricordare a tutti che io sono Ferran Torres. Tripletta. Primo in sforbiciata, molto molto molto bello, basta che va. Per gli amanti del folklore, del calcio ignorante e pastorale, segnaliamo che Lamine Yamal segna sul calcio di rigore e suo padre insulta tutti di tribuna. Vabbè, così, proprio veramente da segnalare, livello basso. Segnaliamo anche che si ferma la progressione verso i piani alti della classifica del Rayo, che nostro malgrado perde a Barcellona contro le Spagnole. Ma ha vinto l'Athletic, però. Sì, ha vinto il Bilbao, che Bilbao. Sta riprendendo dopo un inizio un po' diciamo non molto performanti. In questo momento è settimo a 23 punti, diciamo. È entrata ripresa nella zona Europa, diciamo così, da sotto ovviamente, dalla Conference, però uno scalpo pesante perché batte l'Atletico di Madrid 1-0, segna Berenguer, proprio lui, vecchia conoscenza del calcio italiano. Poi quando si incontrano queste due è sempre molto particolare, perché ricordiamo che una è figlia dell'altra. Sì. L'Atletico Madrid è letteralmente figlio dell'Atletico Bilbao. È una storia molto lunga, ma è così, ve l'ho riassunta nel modo più brutale, ma è letteralmente così. I colori sono quelli. Esattamente, la storia è molto affascinante, niente male. Deve giocare l'Osasuna, giocherà oggi, perde sul campo dell'Alavés la Real Sociedad. Male, loro male. Ancora invece zoppicano. Esatto, non ha giocato il Villarreal, che dovrà giocare penso oggi anche lui, e ha la possibilità di superare il Real Madrid. In caso di vittoria, notevole. Con un pareggio la raggiunge, diciamo così, e con una vittoria si lancia all'inseguimento del Barcellona al secondo posto, quindi grande occasione. In questo momento è la miglior difesa della Liga. Peccato, giochi contro la Cremonese e quindi miglior difesa della Liga, 13 gol subiti. Chi, la Cremonese? In 15 giornate, ma quasi. Il Villarreal. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda la Liga. Andiamo in Premier League? È successo un casino dopo l'altro. Dai, raccontaceli un po', perché io non l'ho seguita questa settimana, la Premier League. Allora, le pagine di Utopia Gunner sono fatte così, si girano una dopo l'altra. Il pareggio col Chelsea lo prendi come il segnale che possa diventare una squadra con abbastanza spalle da portare il primo posto sulla schiena così, tirarselo avanti e starci insieme, ballarci insieme. Poi arriva un avversario abbordabile, l'Arsenal vince 2-0 col Brentford, ok, fin qua c'eravamo. Arriva il momento di andarsi a giocare la conferma delle tue ambizioni di successo stagionale sul campo dell'Aston Villa a Birmingham, al Villa Park, perdi 2-1, perché è così. Perché prendi gol al 96esimo, che è molto Gunners. Molto Gunners. L'aveva già preso, mi sembra, o l'aveva vinta domenica scorsa. L'aveva vinta. È squadra che gioca sempre sull'ultimo istante. Arsenal, ti prego, non fare come Bologna che mi fa incazzare, proprio nel momento in cui invece doveva farmi un attimino esaltare. Però una sconfitta a Birmingham con l'Aston Villa non è neanche scandaloso, insomma, no? Ci sta il pomata, un Unai Emery, comunque uno che bravo, bravo, ma questo è uno che ha svariati titoli europei in bacheca. Ok, cioè non è l'ultimo cretino che arriva. Certo, però c'è un Manchester City che è in forte crescita. Forte crescita. Tra l'altro anche l'Aston Villa, perché ha 30 punti, ha 3 punti dai Gunners, mentre il Manchester City ha 31. Quindi sono solo 2 i punti di vantaggio per l'Arsenal. L'Arsenal poi aveva un calendario, diciamo, abbordabile. Aveva in casa il Sunderland, fa 3-0. Haaland non segna, c'è ma non segna, si fa vedere poco. Ma c'è un Ryan Cherki clamoroso, veramente se l'è mangiata la partita. 2 assist. Ah, ma ragazzi, no, grandi numeri, balistica, tecnica, davvero partitone. Lo sapevamo, anzi è arrivato un filo tardi sui grandissimi palcoscenici, però finalmente è esploso. Si chiude il quartetto di testa con un'altra di quelle squadre che non ti aspetti. Non l'hanno vista arrivare, ma i colori rosso-blu l'anno scorso gliene è andata. Il Crystal Palace sta capitalizzando e in questo momento è lì in lotta per l'Europa. Un po' sorpresa, diciamo, sono le prime tre che fanno un campionato tra di loro. E, 4 punti sotto l'Aston Villa si trova il Crystal Palace, che guida invece un trenino di quelli che lotteranno per il posto Champions. Beh, allora, hanno vinto la Coppa l'anno scorso, però, vinto la Coppa, e non sono potuti andare in Europa League perché il proprietario è proprietario di un'altra squadra che faceva l'Europa League, e quindi sono finiti in Conference. Però davanti hanno un punto di vantaggio sul Chelsea e anche sull'Everton, 2 punti sull'Everton, che sta facendo un'ottima stagione. Non abbiamo ancora citato il Liverpool in questa classifica. Il Liverpool è a 23 punti, quindi in questo momento sarebbe settimo insieme al Brighton, a 3-3, al Sunderland, e non vince neanche nell'ultima partita. Tra l'altro è uscita anche un'intervista di Salah abbastanza, insomma, che pesa, racconta abbastanza il clima, diciamo, non brillante che c'è in casa Liverpool. Liverpool che andrà a Milano a giocarsi in Champions League la sfida contro l'Inter. Sì, casa Liverpool male male, vincevano 2-0, prendono 2 gol in 2 minuti da... Anche loro ne fanno 2 in 2 minuti. Sì, esatto. Vengono rimontati in 2 minuti dal Leeds, quindi la doppietta di Eketike diventa ininfluente. Szoboszlai la riprende all'80esimo, al 96esimo subiscono il gol del definitivo 3-3. Ora, Szoboszlai lo aveva già fatto con la maglia della sua nazionale, quella ungherese, di fomentarsi e irridere i tifosi ospiti, perché in quel momento sembrava che l'avessero svangata, poi alla fine non impara. Non impara niente quel ragazzo, non impara davvero niente. È vero, questa è la situazione. Salah ha 3 partite che fa panca, poi deve anche partire per la Coppa d'Africa, esatto. Quindi secondo me ormai non lo recuperi più, difficilmente secondo me lo vedremo in campo. Ma infatti io me l'aspetto che Salah, se qualcuno, cioè, se lo vuole portare a casa, io mi aspetto che si sposti. Potrebbe, che vada, insomma, vediamo. Non è vecchio, se va, no, ma soprattutto tanto che sarà, in giro, insomma, lo conosciamo, esatto. Ma non è vecchio, quindi sì, vediamo. Nei campionati italiani potrebbe tornare, no, abbiamo detto che il campionato italiano è adatto per quelli che hanno un po' di età, ma no, ti dico, non vecchi, ti ma dico la verità, alla Samp uno che segna serve. Ah, quindi dici, se viene alla Samp tu se lo prendi, se sta contenta di un piatto di trippa ogni giorno, va bene. Beh, trippa è buona, trippa di mare di la San Benedetto, possiamo chiudere là, vale la pena. Vediamo. Non ha perso il Wolverhampton questa settimana. Ah, la notizia sarebbe che non ha perso. Perché non ha giocato. Non gioca ha... con lo United, però è lo United. Attenzione. Gioca stasera, eh? Potrebbe regalare. Ha ragione Fio, però è lo United. Partita che potrebbe regalare almeno un punto. Ricordo che ne ha due di punti, quindi anche un pareggio sarebbe una gioia per i tifosi del Wolverhampton. Farne di più in una sola partita rispetto a quelli che hai adesso, sarebbe pure da 2 a 5 lo United potrebbe regalarci questa situazione. Bene, continuiamo, quindi saltiamo il campionato, andiamo in Bundesliga. Bundesliga dove ho seguito la partita del Bayern. Kane non aveva ancora segnato, in realtà era in panchina, è entrato in campo, credo che l'abbia fatta 3 in 22 minuti, una roba del genere. Ho detto vabbè, adesso non mi hai lasciato in panchina, adesso lo dico io, li ha fatti 3 in 20 minuti, una roba del genere. I numeri sono impietosi e ovviamente insomma forse solo Mbappé ha segnato di più nella somma della stagione. Ha fatto più gol di Haaland. È molto complicata la statistica di Kane, perché ha fatto 79 gol in 76 partite e già la situazione qua è grave. Il problema è che in queste ci sono 10 triplette. Sì. Cioè te devi stare calmo, ragazzo. Sì, però ripeto, a fare il pesce grande nell'acquario piccolo so bonito, non voglio essere cattivo, però sono davvero buoni tutti. 12 vittorie e un pareggio il cammino del Bayern Monaco in campionato. Capite che non è una cosa in Bundesliga, o ricapita il Bayern Leverkusen di turno che azzecca la stagione quasi divina, se no non... Cioè io, anche in Kane sì, è nato di questo, perché mo adesso sono sicuro che lui torni a casa ogni giorno soddisfatto e tutto, ma non si annoia. C'ha in garage la mensola con i palloni. Sì, però io dico che come in tutte le cose, dopo un po', quando è tutto troppo facile, sì. Perde no? Un po' il gusto, no? Non perde un po' il gusto di guadagnare. Sì, però... Allora, il conto è questo, raga, è facile. 13 per 3 fa 39 e 37 sono i punti del Bayern. Ecco, questo è grave la situazione, raga. Cioè, vuol dire che hai pareggiato una volta. Sì, ho detto prima, sono 12 vittorie e un pareggio per il Bayern Monaco, che ha 8 punti già di vantaggio sull'RB Lipsia, che ne ha 29, e 28 li ha il Borussia Dortmund. RB Lipsia che si prende così la soddisfazione di fare appallate in casa contro il Francoforte, che non è una squadretta, è comunque l'Eintracht, però fa 6-0. Primo set è finito così. Sì. Diomandé tripletta anche per lui. Dopo il Borussia Dortmund, che ha 28 punti, c'è il Bayern Leverkusen, 23, stagione normale, ovviamente, sarebbe strano quella, la stagione della ricostruzione, tra l'altro non partita neanche troppo bene. Va anche a perdere ad Augusta in questa giornata. Però sì, quella è la situazione, rimane quarto insieme all'Hoffenheim, pari punti con l'Hoffenheim. Poi Stoccarda, Eintracht Francoforte e il mio Colonia, che è bello, tranquillo, salvo, stagione tranquilla, pareggino con San Paolo in casa, che porta punti a una squadra anche simpatica che ne ha bisogno, perché San Paolo è 17esimo e quindi in questo momento retrocederebbe, dietro c'è solo il Mainz, che è appunto l'ultima della Bundesliga, che ha ben 6 punti come quelli della Fiorentina. Come quelli della Fiorentina, esatto, gli stessi punti della Fiorentina. Andiamo in Ligue 1, che continua a essere un campionato molto aperto, perché Lens continua a vincere e Thauvin continua a segnare. Clamoroso. Un altro gol, uno solo stavolta, e Lens rimane in testa alla Ligue 1 con 34 punti, 33 li ha il Paris Saint-Germain. Questo insomma vuol dire non dormire sonni tranquilli per il Lens. Sì, anche perché ne fa 5 il Paris Saint-Germain in casa contro il Rennes, che rimane anche in 10 al 74esimo, danno così la possibilità di dilagare. Doppietta per Kvara, che comunque è un buon giocatore. È quel giocatore. L'abbiamo visto, è un buon giocatore. Ha fatto un anno che sembrava il miglior giocatore del mondo. Ma quindi vogliamo dirlo, in questo momento la Ligue 1, la tanto vituperata Ligue 1, che era rimasta pure senza copertura televisiva, è probabilmente il campionato più figo d'Europa? Sì. È molto aperto. Non ho detto il più bello, era il migliore, ho detto solo il più figo. Sì, perché non avendo venduto i diritti non c'è il pezzotto. E quindi, per colpa della pirateria, il nostro campionato è lì, non c'è la pirateria, e quindi il campionato è bello, capito? Questa è la situazione, l'ha detto uno lì. Ho sentito che un ubriaco. Però gli ha dato un microfono. Quindi uno che era lì. Passava di là. Che passava di là, probabilmente. Una bella notizia invece nel mondo dello Standard Liegi. Cioè, bella o no, non lo so quanto bella proprio veramente nel gruppo dei tifosi veri del Standard Liegi. Perché sta andando bene la squadra, tanto che in questo momento è al quarto posto. Cioè, sì, è successo. Se finisse così sarebbe nella pool scudetto, non più nella zona dove succedono le cose. La vittoria per 2-1 contro il Cercle Bruges l'ha portata finalmente nella pool scudetto, che sappiamo che non è il posto dove vogliamo stare, però siccome non è lunga, cosa che interessa, siccome è lunga, per un po' ci appoggiamo lì. Sì, siamo qui ma non per rimanere. Siamo passati a fare un saluto. Anche il Mechelen credo sia nella top 6. Sì. Quindi sarebbe in questo momento entrambe le vostre squadre andrebbero a giocarsi lo scudetto. Cioè, sarebbe bellissimo. Sì, ma è oltre quello che noi volevamo. Noi bazzicavamo le basi. Quella di mezzo era meglio. Ci appoggiamo lì, come dice l'amico Fio, vediamo che succede. Se poi alla fine proprio dobbiamo, e vabbè. Potrebbe vediamo. Ascolta, parliamo di campionati esteri interessanti. Serie C, girone B. Ma no, ma ragazzi, allora stiamo facendo l'unica cosa che io pregavo non avessimo mai fatto, e cioè stiamo dando retta alle chiacchiere. No. Dove noi siamo specializzatissimi a dare retta alle chiacchiere che fanno male. Adesso ricapitoliamo. Non c'è più Ottavio Paladini alla guida della squadra. Ok, sembrava all'inizio della comunicazione della società che fosse una decisione condivisa. Inoltre si aggiungeva il fatto che all'ex coach era stato offerto comunque di rimanere in società. Sembrava tutta una cosa molto tranquilla. Le prime chiacchiere però, che volevano che il nuovo allenatore in realtà fosse già in tribuna durante la partita, alla fine sembrano essere vere. E nel frattempo la Samba ufficializza subito l'ingaggio di mister Filippo D'Alessio, che è l'allenatore del Rimini, che purtroppo non esiste più da una settimana, perché di nuovo, come al solito, in Serie C dobbiamo vedere saltare in aria due, tre squadre, e le prossime sono tipo Ternana e Trapani, sono lì. Avete sentito Antonini? Trapani molto complesso. Trapani, l'avete visto il fenomeno? Ne abbiamo parlato già negli anni scorsi, ma ci stiamo allargando troppo, rimaniamo concentrati sulla Samb. E quindi secondo me è una bella presa, ok? Però giovanissimo, allenatore molto giovane, dinamico, Rimini se la stava giocando bene nonostante la penalizzazioni. Acquistiamo anche dai giocatori, sono tutti svincolati, noi abbiamo firmato Marco Piccoli, centrocampista che conosce la categoria sempre del Rimini, quindi un uomo fidato del coach. Insomma, è tutto più o meno come dovrebbe andare. E in più c'è questo dicembre in cui ci sono poche partite in cui ci si può allenare, ricostruire. Bravissimo, ti dà pure il tempo, il timing è perfetto e ti dà il tempo all'allenatore. E però ci sono un po' di chiacchiere, ieri si è sentito male il presidente, che è ancora sotto osservazione, quindi un momento un po' così. Ci sono un po' di chiacchiere che disturbano, noi non dobbiamo assolutamente cascarci di nuovo. Ok, questo è infatti il segnale. Non abbiamo e giocato con questo... perché dovevamo giocare con Rimini. Che... Eh sì, certo, era riposo, giorno di riposo. Comunque tre punti dai playoff, si può ancora fare tutto. Segnaliamo la Ternana che vince il derby in casa del Perugia, sì, partitone. Segnaliamo Stefanone o Cacaciuca, che fa un gran gol. 103esimo di tacco. Adesso abbiamo il nostro super ospite della Formula 1, l'avevamo già citato in apertura di trasmissione, e quindi giustamente siamo ci pronti. Diamo un po' di gas. Diamoci un po' di gas. L'ultima giornata è stata l'ultima gara, e quindi comunque c'era anche dell'attesa, era un'ultima gara che c'era una tensione. Io ho sentito tutti i commenti, anche i commentatori di Sky, no? Tutti lì a pensare le possibili strategie che Verstappen poteva fare per poter mettersi in una posizione che gli permettesse di vincere il titolo piloti, sarebbe stato il quinto. Era anche simpatico, diceva: ne ho già quattro a casa, un quinto non sta male, interviste, no? Esposto. E invece alla fine abbiamo avuto una corsa diciamo quasi regolare da un punto di vista, anche le strategie secondo me potevano essere diverse, e forse a favore di Max Verstappen. Ricordiamo che Norris ha vinto per due punti, che sono quelli che vanno lì a rompere le scatole a Kimi Antonelli, perché nella corsa precedente, no, ha fatto passare Norris per un suo errore. Però se andiamo indietro nel tempo, di errori ce ne sono stati tanti, e se Norris avesse perso, diciamo, il titolo oppure Verstappen per, cioè le conseguenze non erano solo quei due punti che aveva guadagnato dall'errore di Kimi Antonelli, lo dico perché in giro c'è gente che pensa che ci sia, a parte il fatto che Verstappen e Antonelli sono amiconi, no? Non si ma anche capisce. Norris inizialmente più amici, poi ovviamente adesso avversari, sì. Con Verstappen Norris insomma ha detto che con Verstappen ha avuto un buon rapporto, quello che sembrava più un cattivone fuori in realtà così cattivo non lo è. C'è da dire che Verstappen è cambiato molto, a parte che mi sembra sia meno spigoloso anche di faccia, no? Nella sua crescita. Sì, l'apice della sua cattiveria agonistica nel duello con Hamilton, sì. Diciamo, l'ha raggiunto e poi da lì però inizio carriera forse anche quello è importante, però inizio carriera prima di quel campionato del mondo c'erano un po' di critiche che era troppo esuberante, certo, che era troppo lui che c'era fuori la gente che era un poco il primo che vincesse, no? Poi ha vinto il primo campionato, l'ha vinto diciamo con un c'è un lato che è un po' show, diciamo, sì, e il regolamento letto in un certo modo, perché comunque quell'ultimo, ci sono delle interpretazioni, quell'ultimo anche giro ieri si dice ci sono state interpretazioni nel sorpasso che ha fatto Norris al giapponese della come si chiama pure Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, sì, perché comunque beh, però Tsunoda andava in qua e in là per evitare il sorpasso e queste manovre sono proibite. Sì, Tsunoda si è ricordato di essere il secondo pilota Red Bull e che il suo compagno di squadra era in lotta per il mondiale, se lo è ricordato all'ultima gara. Secondo me Verstappen non confidava molto in Yuki perché c'è niente da fare, non lo so. Comunque Tsunoda rimarrà nell'ambiente Red Bull, lo ricordiamo, non è stato licenziato, sarà il terzo pilota di tutte le scuderie della Red Bull, che sono due, lo ricordiamo. Comunque parliamo ancora della gara di ieri, è bene che Lando Norris abbia vinto il mondiale da un punto di vista, perché sennò erano sempre o i piloti della Red Bull o della Mercedes da un po' di anni, c'era questo monopolio, non voglio dire monopolio, però questa dominanza. E male secondo me per Verstappen, si vede che Verstappen gliel'aveva data su, non lo so, si saranno accorti, non lo so, no? Vengono tanti retropensiero, però negli ultimi giri, nella seconda fase della gara, quando comunque è stata dominata da Verstappen, aveva un distacco su Piastri che lo precedeva di oltre 20 secondi. Ed era possibile secondo me un secondo pit stop, perché ricordiamo molti piloti hanno fatto due cambi gomme e Verstappen ne ha fatto uno solo, quindi e anche Piastri fra virgolette, quindi aveva un vantaggio che gli consentiva di entrare, e del resto i meccanici della Red Bull sono bravissimi e in due secondi potevano farglielo il cambio gomme, rientrare e praticamente ridurre i distacchi che c'erano rispetto ai piloti che inseguivano Verstappen. Al terzo posto, lo ricordiamo, Norris, ma al quarto c'era un Leclerc che ieri sembrava ne avesse. Non so se qualcuno ha visto la gara, c'è Leclerc che ha anche tentato di superare, poi vengono cioè di superare Norris. La Ferrari ieri in gara si è comportata secondo me abbastanza bene, poi sappiamo i difetti che ha, e quindi però c'era una possibilità, e se Norris arrivava quarto avrebbe vinto Verstappen. Quindi questa diciamo infatti anche Verstappen chiedeva al box: oh, ma Leclerc ce la fa? Può farcela? Sì, è vero, c'è là il momento per, però secondo me potevano fermarlo, cioè Mingo, potevano chiamarlo dentro, lui rientrava che era, se non era in testa, poi Piastri se lo mangiava col panino, come ha fatto comunque del resto in un sorpasso precedente. Quindi secondo me la strategia Red Bull ieri poteva portare a casa il colpaccio. Se avessero avuto anche un secondo pilota, poi magari. Se avessero poi avuto un secondo pilota, chiaramente avevano tutte le condizioni per farlo. Certo, certo. Era comunque difficile. Rimane una stagione in cui lui è quello che ha vinto più gare. Sì. 8. Con la vittoria erano tutti pari, no? Dicevamo. Cioè, la anche in un pareggio, secondo me, valeva anche il fatto di aver vinto più gare. Non so. Sì, cosa ne pensa. Sì, quando arriva pari. E tra l'altro, quei punti lì ci sono anche giro veloce, pole position. Adesso... No, il giro veloce non lo danno più. Ah, non lo danno più. Però due punti, non so, vabbè, le sprint ci sono. Sì, ma le sprint non è brillato Verstappen. L'ultima poi è così arrivato sesto, cioè che era l'anticamera. E invece poi ha fatto la pole nelle qualifiche o comunque è arrivato nelle prime posizioni e poi ha vinto la gara. Questo racconta anche che è una macchina difficile anche per Verstappen la Red Bull. Certo, però come abbiamo detto la settimana scorsa è una macchina che si adatta alle esigenze, infatti ieri aveva un'aerodinamica alla Verstappen che in curva non tiene la strada ma nel dritto va più veloce, quindi lui, siccome la riesce a tenere anche con le gomme sgonfie in curva, quindi ecco, diciamo, a differenza della Ferrari, facciamo sempre questo confronto, la Red Bull era più, si poteva migliorare, cambiare delle condizioni, la Ferrari sembrava inchiodata, non riuscivano mai a trovare un assetto giusto, mentre abbiamo sempre visto che la Red Bull arrivava sul circuito, le prove libere non brillava, se c'era una sprint non sempre ha brillato, però arrivavano poi o alle qualifiche o alla gara che riuscivano a mettere a punto la macchina come poi probabilmente pretendeva Verstappen, perché diamogli anche questo merito. Cioè, allora, in questo panorama di piloti. E diciamo così, questo era il lavoro di Red Bull, e ovviamente il secondo pilota, secondo me, si trovava con la macchina. Cioè, era un muletto di Verstappen fondamentalmente, quindi non era pensata per il secondo pilota. Non posso pensare che tutti, perché ce ne sono alternati, diciamo così, di piloti come secondi piloti, e nessuno è riuscito a dare dei risultati. Questo è vero, Verstappen sapeva lavorare, la squadra lavorava, diciamo, soprattutto su di lui, lui probabilmente ha una modalità di sentire l'auto che è, o col culo, che non, cioè nel senso non di fortuna, no? Certo, vibrazioni che cioè, arrivano. C'è gente che riesce a interpretare la macchina, e uno, secondo me Verstappen è uno di quei, anche perché quando nel weekend che non corre va a fare delle altre gare minori e le vince, sì, no? Sì. Il Nürburgring era la prima volta che ci andava e l'ha vinto, certo. Cioè, ha un tocco incredibile, secondo me deve essere divertente anche il rapporto con i meccanici, cioè deve avere tutti contenti di lavorare con Verstappen, anche perché dicono che lui è molto generoso, fa regali ma costosi, cioè, non parliamo del suo, diciamo, meccanico, il tecnico principale, come si chiama, l'italiano che segue Verstappen, bellissimo team radio a fine gara, sì. Non so se è andata così, grazie a tutti, avete fatto il vostro meglio, ma no, te sei un grande, hai spaccato, è un piacere lavorare con voi, signori. Beh, allora diciamo così, questo l'ha perso, ma è quasi come se l'avesse vinto, fa pari con quello che ha vinto, il primo che ha vinto, che poteva essere un po', no, rimaneva quel dubbio. Sì, diciamo c'è un ritorno. Questo l'ha perso da grandissimo, perché è importante sapere anche, i grandi campioni si vedono anche quando perdono, cioè come sono, e lui ha dato veramente il meglio di quello che si poteva fare con una macchina che evidentemente aveva qualche problema. Io devo dire personalmente di Verstappen mi è stato anche antipatico, ok? Soprattutto quando facevo il furbo, no? Però oggi l'ho rivalutato, comunque lui ha fatto un miglioramento di se stesso, non fa più le furbate, non è più quello che dà il colpetto di gomma per buttarti fuori. Sì, poi casomai se la vede brutta, queste tecniche le conosce bene. Allora, io quello che dico è, secondo me è un vero pilota. Cioè, oggi come oggi, con tutta la tecnologia che hanno le macchine, con tutta l'assistenza via radio che hanno dai box, lui è uno che poteva anche correre la mille miglia negli anni 50. Uno di quel tipo lì, esatto. Quello che guidava con la cagnetta. Ed è bello appunto in tutta questa ipertecnologia sapere che c'è una persona, un uomo, un essere umano, non un'intelligenza artificiale, non una realtà che fa un giro con la macchina e dice: oh, secondo me l'alettone va messo così, secondo me quel bullone lo giri. C'è l'ingegnere che dice: oh, vabbè. No, cioè, è anche bello sapere che c'è la possibilità in uno sport così a così alto livello tecnologico di intervenire un po' intervenire su questa cosa, è no? Umano che anche rende un po' umanità, quindi alla fine una sconfitta che lo rende anche più, sì, più simpatico. Sì. Poi sulla McLaren, scusami, vogliamo anche parlare, diciamo che alla fine la loro gestione dei piloti, no? Di non volere, fra virgolette, favorire nessuno fino all'ultimo, no? E poi alla fine è stata vincente, no? È stata una cosa molto criticata, come dire, battezzatene uno, spingete quello, no? Invece lì hanno tenuto un equilibrio e quindi, diciamo, sono state le debolezze dei piloti a fare delle differenze in certe fasi del campionato, perché abbiamo visto un Piastri che testa alla classifica piloti, dopodiché ha avuto una caduta, un Norris che ha fatto anche lui dei zero, cioè nelle diciamo corse precedenti, quindi però questa gestione democratica, chiamiamola così, no, progressista e alla fine comunque ha vinto, hanno portato a casa titolo costruttori e piloti. E in tutto questo però non possiamo non ricordare che Max Verstappen, dopo il Gran Premio d'Olanda vinto da Piastri, aveva 104 punti di distanza dalla vetta e ha chiuso il campionato a meno 2. Non male, non male, non male, una bella bella, questo si bella aggiunge rimonta a tutto quello che abbiamo detto. Velocemente finalmente l'anno prossimo cambiano le regole. Tutti. Io a me piace solo quella stagione, la stagione, allora, del cambio regole. Avremo ormai auto, mi sembra, più corte di 20 centimetri, più strette di 15 o 10 penso. Cioè adesso vi do quindi proprio anche le dimensioni. Perché cambiano, poi si sa che ci sarà un propulsore che sarà 50-50 termico o elettrico, giusto? Chiedo a Fiona, sì, che la guida una. la Formula 1 dell'anno prossimo, la sì, sta testando lui. Sta testando sulle strade bolognesi. Sì, sì, col ticella, col cantiere del tram. E la parte elettrica del powertrain ibrido diventa sempre più rilevante. Praticamente si equivalgono, non in potenza, perché non si possono sommare le mele con le pere, ma la coppia a zero giri del motore elettrico e la potenza e l'allungo del motore termico lavoreranno insieme con un apporto ancora superiore della parte elettrica rispetto a quello che già accade. Mi fa piacere di essere stato qua oggi per avere queste informazioni da Fio, perché io sulla parte elettrica o sul motore non ne sapevo niente. Poi so che ci saranno meno alettoni mobili o più alettoni mobili, non ho capito, perché anche lì ci sono diverse interpretazioni, però diciamo cambia completamente tutto, quindi anche lì si vedrà, si spera in una rinascita della Ferrari e anche di un Hamilton che capisca cosa sta facendo. Sì, nell'anno di transizione diciamo che è quel momento in cui di notte tutte le mucche sembrano nere, sì. Quindi magari chi ha un grande vantaggio adesso lo perde e chi ha inseguito in questa stagione parte da un punto comodo con gli altri. Non dimentichiamo anche che ci sono due scuderie nuove. Sì. Perché c'è l'Audi che rileva Sauber, per il momento mantenendo la coppia di piloti Hülkenberg-Bortoleto in teoria, e Hülkenberg fanno bene a tenerlo, e c'è la Cadillac, cioè, la vecchia Cadillac. Scambiata per un microfono dai Blues Brothers qualche anno fa, che fa tornare da titolare in Formula 1 due vecchie glorie, Valtteri Bottas e Sergio Baffone Perez, che era quello che esatto. Era il secondo pilota della, che più o meno ha fatto un po' meglio di Tsunoda, devo dire, era quella, minimo, uno dei sì. tanti secondi sì. pilota che si è alternata a fianco di Verstappen. E questa è penso il punto più interessante dell'anno prossimo sia la prima vera Aston Martin di Newey. Ah, ok, quindi anche la Aston Martin che... È vero, c'è anche questi tecnici che arrivano dalla Red Bull che hanno sempre, diciamo, indovinato la macchina, ecco, però... Quindi sarà interessante. Volevo chiedere, allora, le macchine le hanno già preparate? Beh, sono state presentate i modelli statici, okay. Perché comunque già le misure sono completamente diverse da quelle che abbiamo visto finora, e fino adesso quella che si è vista meglio più da vicino è l'Audi. Si vede che ha una aerodinamica molto pulita che assomiglia a quella, diciamo, delle Mercedes prima dell'esasperazione delle pance strettissime degli ultimi due anni. Molto lineare, molto pulita, anche la livrea senza sponsor, anche più leggera dovrebbe essere, sì, perché comunque è anche molto più piccola, quindi perde anche risparmia parecchio in peso. E vedremo come girano, vedremo, cioè, su che passo girano. Chiedo, perché... chiedo a Fio, perché visto che tu ne stai provando una, c'è già qualcuno che, voci di corridoio, sembra che abbia dei vantaggi o che abbia avuto la possibilità di, per primo, di sviluppare delle cose? Ma chi ha iniziato prima e chi non ha fatto aggiornamenti grossi durante quest'anno? Quindi, cioè, quindi Ferrari, la parte di ricerca, però ha lavorato solo di simulatore. Cioè, immagino a un certo punto i Ferrari hanno detto questa stagione è andata. Ah, beh, questo sì. Invece che lavorare su quella di quest'anno, lavoriamo su quella dell'anno visto prossimo. Che non abbiamo Verstappen come pilota artigiano che può venire, che fa il carrozziere, ma sì, anche l'elettrauto e un po' il meccanico. Sarebbe bello la chiusura della carriera di Verstappen alla Ferrari e vincere finalmente il titolo. Che non faccia come, ben, come ma ragazzi, Hamilton. Ma Leclerc è fortissimo, ragazzi. Vabbè, no, sì, però vediamo. Va bene tutto, però Verstappen... l'abbiamo visto anche, cioè, oggi abbiamo parlato dei vincitori, dei vincitori più in generale, perché abbiamo detto, è vero, Norris ci fa piacere, siamo contenti, ma ha vinto anche Verstappen, poi sarà la medaglia di cartone, però dei meriti ne ha avuto, abbiamo dato dei numeri, mi sembra che sia evidente. E domani incominciano i test, iniziano subito con le gomme, quindi su monoposto di quest'anno affidata a piloti esordienti, monoposto di quest'anno con modifiche 2026, soprattutto sulla dinamica, visto che le misure di ciclistica rimangono quelle che conosciamo già per il momento, si provano già le gomme per l'anno prossimo. Poi nel corso dell'inverno si faranno i test. Molti a porte chiuse, gennaio, febbraio. Quindi a porte chiuse, cioè... Barcellona a fine gennaio è a porte chiuse, senza neanche la stampa. Ah, perfetto, questo è l'inizio della nuova stagione, che poi credo inizia a inizio marzo, può essere? Sì, dovrebbe essere marzo. Comunque, ci vediamo a marzo. Ci rivediamo a marzo, adesso vai in vacanza, stai partendo, sì, e quindi. Infatti, sì, giustamente. Fatto prima, perché sennò perdo l'aereo. Vado a Abu Dhabi per i test che sono domani. C'è solo lui, l'unico ammesso. Con i baffi finti, ovviamente. Sarà lì in mezzo. Bene, grande Gozza. Ci risentiamo lunedì. Yeah.